45. Malfattini. In quei paesi dove si fa uso quasi giornaliero di paste d'uova fatte in casa, non v'è servuccia che non ne sia maestra, e molto più di questa che è semplicissima. Non è quindi per loro che la noto, ma per gli abitanti di quelle province, ove non si conoscono, si può dire, altre minestre in brodo che di zuppa, riso e paste comprate. I malfattini più semplici sono di farina. Intridetela con le uova e lavoratela con le mani sulla spianatoia per formarne un pane ben sodo. Tagliatelo a fette grosse mezzo dito e lasciatele esposte all'aria perché si rasciughino. Tritatele con la lunetta fino a ridurle in minuzzoli minuti, quanto la metà di un chicco di riso, facendoli passare da un vagliettino onde ottenerli eguali, oppure grattateli dal pane intero. Ma non imitate coloro che li lasciano grossi come il becco dei passerotti, se non volete che vi riescano di difficile digestione. Anzi, per questo motivo, invece di farina, si possono fare di pan grattato semplice, oppure aggrassiato con un pizzico di parmigiano e l'odore di spezie. In tutte le maniere, al tempo dei piselli potete, piacendovi, unirli con quelli della ricetta numero 427, oppure con la bietola tritata minuta, o con gli uni o con l'altra insieme. A proposito di questo ortaggio, ho notato che in Firenze, dove si fa grande uso di erbe aromatiche nella cucina, non si conosce l'aneto, che mescolato alla bietola, come si fa in altri paesi, le dà molta grazia. Anzi, l'aneto, pel suo grato odore, tentai diverse volte di introdurlo a Firenze, ma non vi riuscii forse perché la bietola si vende a mazzetti, mentre in Romagna si porta sciolta al mercato o già frammista all'aneto.